Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Noi viviamo la nostra vita quotidiana facendo una serie di gesti sui quali ovviamente non possiamo riflettere tutti i momenti. Torniamo a casa, accendiamo la luce, guardiamo la televisione, magari cuciniamo col forno elettrico, usiamo il computer, facciamo una serie di cose che hanno caratterizzato il nostro stile di vita e siamo circondati da oggetti che ci rendono l'esistenza più facile. Bene, tutto questo immenso patrimonio di informazioni che continuano a subire evoluzioni e miglioramenti derivano, almeno nella loro fase iniziale, da un uomo solo. Noi stiamo per raccontarvi una storia che pochi conoscono così dettagliatamente, ma soprattutto è anche una storia di arroganze, di ingiustizie, di cattiverie, tutte ruotanti attorno a un personaggio che ha al suo attivo talmente tante invenzioni da poter affermare che è stato lui che ha traghettato l'umanità nell'era moderna, ha inventato la corrente alternata, quella che usiamo tutti i giorni a casa, ha sperimentato per primo la diffusione radiofonica, ha realizzato la prima centrale idroelettrica nel mondo, quella delle cascate del Niagara, ha inventato i motori magnetici dei nostri elettrodomestici, il tubo catodico dei televisori, il contachilometri delle automobili, la risonanza magnetica, la sismologia, il telecomando, la robotica, i radar per il controllo del traffico aereo. E queste sono solo alcune delle sue invenzioni, le più facili, ce ne sono alcune che sono difficili da comprendere, tanto più per me da spiegare se non si è esperti in fisica o in ingegneria meccanica, e io non lo sono. Beh, uno così dovrebbe essere messo su un piedistallo a perenne memoria, dovrebbe essere ringraziato pubblicamente ogni giorno per quello che ha fatto per l'umanità. E invece no, quest'uomo è stato dimenticato, lo conoscono in pochi e pochi sanno quanto l'umanità gli debba. E noi oggi lo celebriamo perché vogliamo attirare su di lui la massima attenzione. Parliamo del genio assoluto e dell'inventore dimenticato Nikola Tesla. Ogni visione, ogni progetto che ho realizzato è stato preceduto da forti bagliori di luce che disturbavano la mia visione degli oggetti reali e creavano confusione nei miei pensieri e nelle mie azioni. Poi tutto si faceva chiaro. È assolutamente uguale per me sia che faccia funzionare la mia invenzione nel pensiero, sia che la provi nel mio laboratorio. Riesco comunque a vedere se funziona o meno. Non c'è differenza alcuna. I risultati sono gli stessi. Non voglio mettervela giù dura, ma anche a me capita di vivere a cavallo tra i sensi, di avere un'immagine visiva di una cosa che sto scrivendo. Comunque, insomma, è un tipo di percezione che si dice abbiano avuto molti grandi del passato, Leonardo da Vinci. È una sorta di visione del tutto che aiuta a avere una percezione più ampia e anche una percezione differente delle cose. Il secondo fatto che ci chiarisce il racconto di Tesla è la sua grandissima immaginazione. Lui aveva una fantasia tecnologica che gli consentiva con certezza matematica di sapere cosa stava accadendo, cosa sarebbe accaduto durante un determinato esperimento senza bisogno che l'esperimento avvenisse nella realtà. Questo è un fatto storico riportato da molti collaboratori di Tesla che hanno potuto sperimentare di persona questa sua capacità incredibile di introdurre la realtà nella propria mente. I biografi, gli studiosi riportano un fatto che appare forse più una leggenda che un avvenimento reale, ma che può spiegare almeno in parte queste sue particolarità. La notte in cui Nikola Tesla nasce è in corso un temporale senza precedenti, è una sorta di tempesta magnetica. Lui coi suoi primi vagiti avrebbe respirato questo magnetismo anomalo presente nell'atmosfera e da questo sarebbe stato influenzato per tutta la sua vita. Ti chissà se questo è vero o no, noi ci atterremo ai fatti. Intanto sappiamo per certo che Nikola Tesla nasce il 10 luglio del 1856 a Smiljan in Croazia, all'epoca siamo all'interno dell'impero austriaco, i genitori sono serbi, quindi c'è subito un conflitto, uno dei tanti che caratterizzano la vicenda di Tesla. La Serbia e la Croazia per secoli continuano a contendersi tante cose, tra cui la paternità di questo scienziato che almeno per loro ha mantenuto nel tempo la sua fama. Comunque il padre è un ministro ortodosso, un uomo rigoroso, la madre è analfabeta ma è dotata di un'inventiva prodigiosa, ha brevettato un sistema per estrarre dalle fibre vegetali il filo che usa per ricamare. Insomma, Tesla eredita le doti di entrambi i genitori, il rigore morale del padre e la vivacità intellettuale della madre. Lui da quando è bambino è già affascinato da fenomeni naturali, soprattutto i forti temporali, i fulmini, rimane strabiliato quando a 4 anni, accarezzando il suo gatto, vede formarsi le scintille, no? L'effetto elettrostatico, rimane incuriosito e si lancia per il resto della sua vita alla scoperta dei fenomeni elettrici. Il falco e il gabbiano. Fin da quando era ragazzino, Nikola Tesla dimostra una mente non comune, una memoria prodigiosa. Arriverà a conoscere perfettamente 9 lingue. È appassionato di letteratura, di filosofia. Quando un libro gli piace, lo impara a memoria per poterlo leggere nella sua mente in qualsiasi momento. Poi è chiaro che le materie nelle quali lui eccelle sono quelle scientifiche. Studia ingegneria elettronica nella Università di Graz, in Austria, che in quel periodo era considerata il miglior istituto del mondo. Poi si iscrive anche all'Università di Praga e studia sia matematica avanzata che filosofia. È un tipo strano, viene considerato un eccentrico, intanto è alto quasi 1,90 m e pesa 65 kg, è un solitario, non fa amicizie, mangia da solo, è asessuato. Più avanti dichiarerà che la castità gli era utile alla ricerca scientifica, è insomma quello che si può definire il prototipo dello scienziato pazzo. Tra l'altro c'è un'interpretazione stupenda di Tesla nel film The Prestige di Christopher Nolan, e Tesla è interpretato da David Bowie, e l'interpretazione di David Bowie da sola vale il film. Siamo nell'81, lui ha 25 anni, si trasferisce a Budapest, va a lavorare per una compagnia di telegrafi come ingegnere responsabile del primo sistema telefonico ungherese, e in quel periodo realizza la sua prima invenzione, l'altoparlante. Poi si trasferisce a Parigi, si impiega nella società di Thomas Edison, la Continental Edison Company, e segnatevi, perché Edison sarà una parte fondamentale della nostra storia. Sarà il conflitto di tutta una vita quello tra Edison e Tesla. Edison era già un mito nel mondo scientifico per le sue invenzioni. Intanto Tesla è a Parigi, realizza il primo motore a induzione di corrente alternata della storia. Nel 1884 si imbarca per gli Stati Uniti perché vuole andare da Edison, spera di realizzare tutte le invenzioni che ha in mente. Lui ha pochi spiccioli in tasca e una lettera di presentazione del suo capo parigino, l'ingegnere Charles Batchelor. Egregio signor Edison, vi mando un uomo straordinario. Ne conosco solo 2 al mondo, di uomini capaci di realizzare cose strabilianti nel settore elettrotecnico. Uno siete voi, l'altro è l'uomo che avete davanti. Immaginate Edison che legge la presentazione fatta su Nikola Tesla. Lui ha già inventato il fonografo, la lampadina, ha acceso il primo sistema di corrente elettrica, continua però, c'è una bella differenza. Insomma, lui è una personalità, la gente comune comincia a conoscerlo, rimane colpito dalle parole di Batchelor, perché è un uomo in gamba Batchelor, sa cosa dice. È un po' piccato, diciamo, chi sarà questo Nikola Tesla che non ha 30 anni e viene già paragonato a me? si accorgerà che le parole sono corrette, perché Tesla si rivela immediatamente un genio. Edison, secondo me, intuisce il pericolo e nel frattempo lo assume nella sua azienda, la Edison Machine Works, gli propone di riprogettare il suo generatore di corrente continua che ha diversi problemi e in pratica, insomma, in qualche modo così può controllare il suo giovane rivale. Tesla ha già iniziato da tempo i suoi esperimenti sulla corrente alternata, che ha una serie di caratteristiche decisamente migliori rispetto alla corrente continua. Però Tesla è povero, ha bisogno di soldi, accetta di lavorare al generatore di Edison. Lui gli offre una cifra esorbitante per quei tempi, $50,000. E lui lavora per un anno alla riprogettazione del motore del generatore di Edison. È un lavoro che frutta l'azienda dei brevetti molto redditizi. A un certo punto va da Edison a chiedergli lo stipendio, diciamo. Edison gli risponde: Tesla, lei non afferra il senso dell'umorismo americano e non lo paga. Lui può fare poco contro una potenza come Edison, così se ne va e va a lavorare come scavatore di fossi. Continua intanto a concentrarsi sui suoi esperimenti sulla corrente alternata, che in poco tempo diventerà la corrente più usata al mondo, insomma è quella che usiamo noi tutti i giorni ancora oggi. Insomma, Edison pensa di averlo messo in ginocchio e fatto sparire per sempre. Lui non può finanziarsi gli esperimenti, non può far nulla da solo, continua solo a parlare della sua corrente alternata nell'ambiente scientifico. Per fortuna incontra sulla sua strada George Westinghouse, che è un magnate di Pittsburgh. Ha fatto i soldi brevettando il primo sistema frenante ferroviario. È un personaggio lungimirante che capisce il potenziale della scoperta di Tesla. Westinghouse acquista i brevetti sui motori a corrente alternata, fonda la Westinghouse Electric Company. Insomma, inizia quella che passerà alla storia con il nome della guerra delle correnti. Da un lato c'è Edison con la sua corrente continua, dall'altro Westinghouse, che ha dietro di sé Tesla ovviamente, con la corrente alternata. La storia darà ragione a Tesla, perché la corrente alternata è migliore di quella continua, la si usa quotidianamente in tutto il mondo. Edison è stato battuto dalla storia, però in quel momento lui vuole difendere i suoi brevetti e dalla sua ci sono tutti gli industriali dell'epoca che hanno fatto grandi investimenti, hanno acquistato impianti molto costosi e tutti questi impianti funzionano col sistema di Edison. Edison fa partire nei confronti di Tesla un vero e proprio linciaggio mediatico, dipinge lo scienziato come un potenziale assassino perché la corrente alternata viene descritta come pericolosissima per la vita. Edison arriva a inventare la sedia elettrica che venderà allo Stato di New York, dando di fatto il via alle esecuzioni capitali per induzione elettrica. Organizza dimostrazioni pubbliche in cui uccide dei cani e dei gatti facendoli percorrere dalla corrente di Tesla, come la chiama lui. Tutto questo per scioccare l'opinione pubblica. Ascoltiamo Massimo Sperini, docente di fisica. Quando Edison si rende conto che il suo sistema in corrente continua non può competere dal punto di vista dell'efficienza con quello della tensione alternata di Tesla, inizia, pur di difendere i suoi interessi economici, una campagna denigratoria contro la corrente alternata. Edison, attraverso l'uccisione di animali, vuole introdurre l'idea che la tensione alternata è qualcosa di molto pericoloso, che va rifiutata, che va rigettata. Questa cosa mi mette un po' di ansia, perché mi vengono in mente tutte le polemiche tra scienziati, gente che parla di cure alternative, medicine particolari. Insomma, i linciaggi mediatici in questo periodo sono molto frequenti e noi non sappiamo la storia a chi darà ragione. Ma andiamo avanti. Queste vergognose campagne di disinformazione pubblica durano diversi anni, culminano il 4 gennaio del 1903 con l'esecuzione di una elefantessa. Siamo a Luna Park di Coney Island a New York. L'elefantessa si chiama Tupi, è un animale aggressivo, ha ucciso già 3 guardiani. Insomma, Edison ne organizza l'esecuzione pubblica. Per ammazzare l'elefantessa usa, dice lui, la corrente di Tesla. L'elefantessa viene posizionata su una lastra di metallo, arriva alla scossa elettrica, muore nel giro di pochi secondi. Tra l'altro il filmato lo potete trovare anche su YouTube, è una cosa triste e ovviamente totalmente inutile. La corrente di Tesla stravince, è infinitamente superiore a quella di Edison e comincia a prendere piede in maniera massiccia e definitiva. La produzione globale della corrente alternata ideata da Nikola Tesla si può definire uno dei grandi passaggi della storia che ha condotto l'umanità all'epoca moderna. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la vita e le grandiose invenzioni di Nikola Tesla, il più grande scienziato di tutti i tempi, uno degli inventori più prolifici, più illuminati della storia dell'umanità. E stiamo raccontando anche delle vessazioni, delle campagne mediatiche vergognose che vengono ordite dai suoi rivali, in particolare da Edison, che si è visto esautorato dal suo ruolo di vate dell'energia elettrica. Eppure Edison lo sappiamo chi è, e Tesla molto meno. Ci sono dei suoi colleghi diventati più famosi, gente che non ha l'immenso patrimonio di informazioni, di scoperte scientifiche, di innovazioni tecnologiche che Tesla ha regalato all'umanità intera. Tutte scoperte che hanno veramente traghettato l'essere umano nell'era moderna. E un po' questo succede per via del carattere chiuso dello scienziato, che non si mette in mostra, non si vuole far riconoscere i brevetti. E poi lui ha una visione umanista della scienza che aveva il compito di, secondo lui, giustamente, di migliorare le vite senza creare guadagno. È una posizione che ovviamente non è condivisa dagli industriali dell'epoca, che hanno costruito i loro imperi sui proventi dei brevetti scientifici. Tesla invece è incapace di gestire i suoi introiti economici, è più appagato dall'idea che le sue invenzioni possano migliorare la vita dell'umanità. Il suo finanziatore, intanto, George Westinghouse, nonostante il trionfo contro Edison nella guerra delle correnti, rischia la bancarotta per le spese che ha sostenuto proprio per difendersi dagli infami attacchi di Edison. E poi deve dare a Tesla tutte le royalties. Insomma, sta per saltare per aria. Bene, che fa Tesla? Non ha esitazioni. I benefici che deriveranno alla società dal mio sistema di corrente alternata a polifase sono per me più importanti dei soldi che entreranno nelle mie tasche. Mr. Westinghouse, voi salverete la vostra azienda, così potrete continuare a sviluppare le mie invenzioni. Qui c'è il vostro contratto e qui c'è il mio. Li strappo, così non avrete più problemi con le mie royalty. L'uomo di scienza non mira un suo tornaconto, né tantomeno a un risultato immediato. Egli non si aspetta che le sue idee avanzate debbano essere accettate immediatamente. Il suo dovere è fissare i principi fondamentali per quelli che verranno dopo. Ecco, vedete, al giorno d'oggi questo verrebbe definito uno stupido, cioè uno che non monetizza sulla sua intelligenza. Però la frase "fissare i principi fondamentali per quelli che verranno dopo" è una frase che dovrebbero scriversi a chiare lettere non solo gli inventori, ma anche per esempio i musicisti, tutti quelli che fanno arte. Bene, e in quel momento Tesla comincia a essere conosciuto perché ha vinto la guerra delle correnti, comincia a effettuare dimostrazioni pubbliche come quella che fa presso l'American Institute of Electrical Engineers e lì diventa vicepresidente. Il presidente era Bell, un altro bel soggetto, quello della disputa con Meucci per il telefono. Comunque, in questo periodo lui comincia a sviluppare la sua rivoluzionaria bobina. La bobina di Tesla, comincia a investigare sui raggi X che poi verranno sviluppati da Röntgen, perché Tesla carinamente gli aveva inviato le immagini della propria mano radiografata prima che Röntgen brevettasse la sua invenzione. E anche qui Röntgen si prende i meriti. Ma soprattutto Tesla comincia a studiare un sistema di trasmissione dell'energia senza fili. Ascoltiamo Mark Seifer, che è il biografo di Nikola Tesla. Tesla è stato il primo al mondo a mostrare come trasmettere energia senza fili attraverso l'aria. Era riuscito ad accendere le lampadine elettriche e i tubi fluorescenti al neon che teneva nel suo laboratorio. I tubi rispondevano a diverse frequenze, quindi se Tesla produceva una certa frequenza, si illuminava un certo gruppo di lampadine. Se invece veniva prodotta una diversa frequenza, era un altro gruppo di lampadine ad accendersi. Capite che per quei tempi un livello di performance del genere è più assimilabile alla magia che non a un esperimento scientifico. Uno che senza fili accende delle lampadine, non so se mi spiego, siamo alla fine dell'Ottocento, e nel 1893 lui realizza il motore della grande centrale idroelettrica delle cascate del Niagara e il motore è ancora oggi in funzione. E nello stesso anno all'esposizione universale di Chicago c'è un padiglione dedicato all'energia elettrica, è un evento storico e Tesla e Westinghouse lo trasformano in qualcosa di mai visto perché introducono i visitatori nel mondo della corrente alternata che viene usata per illuminare tutta l'esposizione. È difficile per noi oggi capire cosa deve essere sembrato alla gente vedere i padiglioni dell'esposizione illuminati a giorno dalle lampadine elettriche. È come se oggi uno va a una fiera e vede una persona che vola. Una delle più sensazionali dimostrazioni pubbliche di Tesla avviene nel 1898 al Madison Square Garden di New York e lui fa muovere una barca radiocomandata. Il comando radio a distanza sorprende tutte le persone presenti, è una delle tante invenzioni di Tesla che lo rendono agli occhi dei suoi contemporanei un personaggio a metà strada tra lo scienziato e lo stregone. Poi inventa la candela elettrica per i motori a combustione interna a benzina, poi applica il radiocomando ai siluri, lo propone all'esercito degli Stati Uniti che non gli rispondono perché è troppo avanti per i militari dell'epoca. E poi nei primi mesi del 99 dalla camera del suo albergo, il Gerlach Hotel di Manhattan, Tesla inizia a condurre i primi esperimenti sulle onde radio. Questo hotel in seguito sarà ribattezzato The Radio Wave Building in ricordo del suo lavoro. Per portare avanti le sue ricerche, Tesla si trasferisce a Colorado Springs. Ai giornalisti che lo intervistano sulle ragioni di questo suo trasferimento, racconta che nelle praterie del Colorado ha maggior spazio per i suoi esperimenti sulle alte tensioni e sulle alte frequenze, ma lui ha in mente ben altro, vuole fare esperimenti sui fulmini, è convinto di poter trasmettere energia attraverso i media naturali, la terra, l'acqua e l'aria, è un'energia gratuita e illimitata, perché è quella che deriva dai fulmini, ce lo spiega Toby Gross, che è un ingegnere elettronico. L'idea di Tesla era fornire energia gratuita in egual misura a tutti gli abitanti della Terra. Tesla capì che c'è una profonda divisione tra chi possiede e chi no, ed era determinato nello scopo di rendere l'energia elettrica ugualmente disponibile a tutti gli abitanti della Terra, come un dono. Capite cosa aveva nella mente quest'uomo? Niente bollette, energia gratuita per tutti. Un'utopia meravigliosa, perché sappiamo che questo rimane un'utopia, anzi noi le bollette le paghiamo sempre più care, l'energia è diventata un bene di potere, di denaro, di discriminazione. Tesla non è uno sprovveduto, perché si rende conto che parlare di energia gratuita può voler dire farsi dei nemici molto pericolosi. Per il momento si tiene la scoperta per sé. Torna a New York e scrive un articolo dai toni futuristici sul Century Magazine, afferma di poter costruire un sistema mondiale di trasmissione dati senza fili, avete capito bene, sistema mondiale di trasmissione dati senza fili, cosa vi viene in mente? Forse internet? Un sistema che potrebbe consentire, dice lui, di scambiare notizie, musica, andamento delle borse, informazioni. Questa affermazione attira il banchiere JP Morgan, che decide di finanziarlo. Gli mette a disposizione un patrimonio di $150,000 in cambio del 51% delle azioni del progetto. Siamo nel 1901, Tesla mette in costruzione il suo nuovo sistema di trasmissione mondiale senza fili, 1901, siamo vicino alle scogliere di Wonder Cliff, Long Island. È una torre caratterizzata da una struttura portante in legno sovrastata da una cupola metallica. Beh, lo scopo evidente è quello di trasmettere radiosegnali in tutto il mondo, però il desiderio segreto di Tesla è quello di riuscire a inviare energia gratuita senza fili a tutto il mondo, cosa che lui si guarda bene da rivelare anche al suo finanziatore. Però il 12 dicembre dello stesso anno il mondo viene sconvolto da una notizia sensazionale: Guglielmo Marconi è riuscito a trasmettere la lettera S oltreoceano, dalla Cornovaglia agli Stati Uniti. Marconi conosce bene Tesla, è andato a trovarlo più volte. Per la sua trasmissione radio utilizza 17 brevetti di Tesla. Ora, va bene, l'invenzione della radio viene universalmente riconosciuta a Guglielmo Marconi nel 1904, però Tesla da quel momento combatterà una battaglia agguerrita per riottenere la paternità di quell'invenzione, che in effetti è sua. Nel 1943 una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti attribuisce a Tesla la paternità del brevetto della radio, ma Tesla non lo saprà mai perché morirà 9 mesi prima. Intanto nel 1909 Marconi viene insignito del Nobel per la fisica, che forse avrebbe dovuto quantomeno essere condiviso con Tesla, e che viene candidato al Nobel nel 1915 insieme a Thomas Edison. Nessuno dei due accetterà di condividerlo, così nessuno dei due lo riceverà. 2 anni dopo, nel 17, Tesla verrà insignito della Edison Medal, considerata la più alta onorificenza scientifica degli Stati Uniti, cioè la beffa suprema. E intanto la questione Marconi per lui è una brutta botta. Lui ha sempre in mente il suo progetto umanitario, che è più forte di qualsiasi delusione, di qualsiasi fregatura, perché Tesla forse è l'uomo che è stato fregato di più nella storia dell'umanità. Neanch'io con i miei contratti firmati nella mia carriera discografica posso competere con le fregature che ha preso Nikola Tesla. Quando lui si sente pronto per divulgare il suo vero scopo ai giornali, Morgan ritira il suo finanziamento perché si rende conto delle terribili conseguenze commerciali di un evento simile. Insomma, rimane solo, è in causa con Marconi, non ha finanziatori, finisce in bancarotta. La Wonder Cliff Tower, il suo sogno, viene abbattuto e Nikola Tesla a questo punto cede, comincia a mostrare segni di disturbo ossessivo compulsivo, parla solo coi piccioni, è ossessionato dal numero 3, vive da solo nel più assoluto ritiro. Ma non smette i suoi studi. Ecco cosa racconta lo scrittore e ingegnere elettronico Thomas Berden. Tesla ebbe la sfortuna di captare segnali radio dallo spazio. Al giorno d'oggi sembra una sciocchezza, ma a quel tempo non lo era. Oggi sappiamo che i pianeti emettono radiazioni, ma quando Tesla annunciò la cosa, fece scalpore nell'opinione pubblica e nel mondo della scienza, e venne considerato una specie di idiota. Beh, lui ha anticipato tutti. Muore il 7 gennaio del 43 a 86 anni, un arresto cardiaco, e solo, povero, in una stanza all'hotel New Yorker. E fino all'ultimo giorno della sua vita lui ha continuato a lavorare al suo ultimo progetto, il Teleforce, chiamato dai giornali il raggio della morte, ma per lui invece è il raggio della pace. È un progetto che propone, ovviamente senza successo, al Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti, che è un'arma segreta in grado di distruggere qualsiasi velivolo che possa rappresentare una minaccia per la pace. Alla morte dello scienziato, tutte le sue scoperte, i suoi archivi, i suoi scritti sono requisiti dall'FBI. Lo stesso Edgar Hoover definisce il caso most secret. E qua quando dopo molti anni e molti sforzi gli eredi e l'ambasciata di Jugoslavia riusciranno a riavere gli effetti personali di Tesla, tra le sue cose non vi è alcuna traccia del progetto Teleforce che è stato tolto, diciamo, da quegli incartamenti. Allora, qual è il vero motivo per cui Nikola Tesla non ha ottenuto riconoscimenti per le sue infinite scoperte? È legato al raggio della morte, o forse alla sua volontà ferrea di ottenere energia libera per il mondo, forse per qualche altra sua scoperta che ancora magari deve essere resa di dominio pubblico. Insomma, è un vero e proprio giallo, però una volta conosciuta la sua storia non si può che provare un senso di gratitudine nei suoi confronti, sperare che il tempo gli renda giustizia, che il suo genio possa essere finalmente ricordato come gli spetta di diritto, e non si può non provare della rabbia per tutte le vessazioni alle quali è stato sottoposto. Ci sono dei colpi d'ala che magari non vengono riconosciuti dagli altri, ma che per noi sono dei colpi d'ala importanti. Ecco, la lezione di Tesla è anche questa: fare delle grandi cose anche se gli altri non le capiranno. Ognuno di noi nella vita può fare grandi cose, non necessariamente verrà capito. Se volete segnalare altre vite su cui volete che io punti il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano chiocciola Radio 24, scrivete al nostro sito, scrivetemi sul mio Facebook, sul mio Twitter, su quelli del Falco e il Gabbiano, insomma, se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì.